Dietro la notizia di Gianfranco Fabi. Buongiorno, bentornati ai nostri ascoltatori. Oggi venerdì 16 gennaio 2009, 8 e 31 minuti. Oggi parliamo di politica, parliamo di partiti, parliamo delle coalizioni, parliamo di questi movimenti all'interno dei partiti e delle coalizioni anche in vista e forse anche per questo delle elezioni europee che si terranno tra qualche mese. Ne parliamo con Angelo Panebianco. Buongiorno professor Panebianco. Angelo Panebianco è professore di scienza politica a Bologna e all'Università Vita e Salute del San Raffaele ed è editorialista del Corriere della Sera e nei suoi ultimi articoli si è interessato sia del problema del Medio Oriente, del grande problema del Medio Oriente, ma anche dei temi legati alla politica italiana di cui è attento osservatore. Ricordo agli ascoltatori il numero verde 800 24 00 24 e io vorrei cominciare chiedendo appunto al professor Panebianco se siamo di fronte in questa fase a una svolta della politica italiana con questo bipartitismo. Oggi Stefano Folli sul suo punto sul Sole 24 Ore intitola l'anomalo bipolarismo, un partito non decolla, l'altro non nasce. Siamo di fronte in fondo a uno stallo della politica, a qualcosa che prelude a qualcos'altro, anche se fare previsioni è sempre difficile, però è anche nostro compito farlo. Professor Panebianco. Naturalmente per ora il bipolarismo tiene, o almeno terrà fin quando il governo reggerà, e non mi pare che ci siano segnali che indichino che il governo sia sul punto di cadere o altro. Quello che stanno accadendo sostanzialmente due cose. Le elezioni europee accrescono la competizione all'interno del governo e in particolare tra la Lega e le altre forze politiche. Questo è in qualche modo fisiologico. C'è una competizione per l'egemonia nel nord e la Lega è in qualche modo l'attacco, è anche favorita dai sondaggi e quindi credo che i problemi del governo del momento siano spiegati da questo. Probabilmente con le elezioni europee molte cose verranno in qualche modo ridimensionate. Il problema serio, mi pare, il problema almeno più serio in questo momento è nell'opposizione e in particolare nel Partito Democratico, perché il Partito Democratico corre rischi seri e il rischio più serio che corre naturalmente è che il progetto su cui era nato, che era quello di un'unificazione tra forze diverse del centro-sinistra, fallisca. Il Partito Democratico è a rischio estinzione in qualche modo, perché potrebbe accadere che forze di quel partito si stacchino per dare vita a una formazione centrista. Questo è il vero grande rischio è la cosa più netta che tocca il bipartitismo italiano in questo momento. Ecco, il Partito Democratico invece corre il rischio di ridividersi, perché sì, in fondo è una unità che è nata da poco tempo. Proprio nei giorni scorsi, sulle pagine del Sole 24 Ore, è uscito proprio quasi un appello di Rutelli e Casini. Casini sta giocando con la sua UDC certamente un ruolo importante, anche se non lascia intendere di avere tempi stretti. Però la tentazione centrista è un po' una tentazione costante nella politica italiana degli ultimi anni, dopo che il centro in fondo ha governato per 40 anni l'Italia. È una tentazione che appunto può veramente rompere il bipolarismo, può essere una tentazione che appunto scompagina la politica che ormai ha già da una parte perso forse definitivamente, perché si continua poi a rompere al proprio interno quel poco che c'è l'estrema sinistra e quindi forse la tentazione centrista in questa fase potrebbe avere maggiori prospettive, professor Panebianco. Guardi, non lo so, è molto difficile dirlo, diciamo c'è una tradizione italiana di di corsa alla costituzione di forze politiche centriste, questa tradizione naturalmente non può non operare. Tuttora le memorie storiche contano e quindi nel momento in cui una forza politica come il Partito Democratico entra in gravissime difficoltà, quella tentazione non può che riproporsi, che ripresentarsi. D'altra parte la tentazione centrista è accresciuta dal fatto che su tutti e due gli schieramenti le forze politiche che vengono date in crescita, ecco, vorrei precisare, vengono date in crescita dai sondaggi, i sondaggi non vanno mai poi presi come la verità assoluta, certo. Che il cambiamento si determinerà veramente, ma comunque le forze politiche che vengono date in crescita sono da una parte la Lega e dall'altra parte Di Pietro, l'Italia dei Valori, che sono forze che non negoziano sui temi sui quali impegnano la loro immagine, la loro identità, o sono dei durissimi negoziatori con le forze più moderate dei due schieramenti, e quando forze del genere sono in crescita, presso le altre forze la tentazione centrista ritorna con forza. Ecco, questo anche perché ci avviamo appunto verso le elezioni europee che si svolgono con il sistema proporzionale e quindi in cui prevalgono i singoli partiti che si presentano ognuno per conto proprio senza particolari coalizioni, soprattutto i partiti grandi e medi partiti. Poi quando si tornerà a discutere di elezioni nazionali si tornerà al sistema maggioritario e quindi all'esigenza di coalizioni. Possiamo dire che anche i sistemi elettorali condizionano il percorso politico, ecco, percorso politico che tuttavia poi non può essere a salti. Se c'è una, mettiamo anche solo per assurdo, una divisione del Partito Democratico, non è che il sistema elettorale poi la risolve. Quindi le elezioni europee rischiano di essere veramente una svolta per questa politica italiana che, per esempio, ci chiede un ascoltatore con un sms al nostro 349-238-6666. L'Italia avrebbe bisogno di una solidarietà nazionale, ma in queste condizioni è sempre più difficile e, appunto, in prospettiva verso il voto europeo, che divide anche all'interno delle coalizioni, è ancora più difficile un accordo bipartisan, come si suol dire. È sicuramente difficile. Allora, due aspetti. Primo, il sistema elettorale delle europee non facilita di sicuro compattezza all'interno degli schieramenti, figuriamoci se in una fase come questa può consentire forme di solidarietà nazionale. Quindi questo è escluso dalla dinamica della situazione. In più bisogna ricordare che le forme di solidarietà nazionale che si danno soltanto, caso della grande coalizione, in certe fasi della storia tedesca o altro, quando gli schieramenti sono poco frammentati. Fondamentalmente, se ci fossero due grandi partiti senza competitori alla loro sinistra o alla loro destra, in una situazione molto grave questi due grandi partiti potrebbero accordarsi. Oggi non possono farlo, primo perché, soprattutto perché ciascuno di loro ha dei forti competitori che sarebbero pronti a sfruttare l'occasione per metterli in difficoltà. Quindi, per quanto si possa auspicare in certe fasi della storia italiana forme di solidarietà nazionale, è meglio che ci mettiamo subito in testa che non sono praticabili. Grazie, abbiamo Sandro da Milano, buongiorno. Buongiorno, grazie per avermi richiamato. Ho sentito con attenzione quanto il vostro dibattito con l'illustrazione del professor Panebianco. Lui ipotizzava la possibilità che il Partito Democratico si scinda nelle sue due componenti. Questa ipotesi di una scissione potrebbe influenzare o perlomeno annullare la prospettiva di unificazione tra Forza Italia e Alleanza Nazionale? La ringrazio, professor Panebianco, se sulla destra può esserci lo stesso effetto che si rischia di avere sulla sinistra. Qualche difficoltà su questo processo di unità c'è, non sono proprio di questi giorni le polemiche tra il Presidente della Camera Fini e Berlusconi sul voto di fiducia sul decreto anticrisi, polemiche che qualcuno ha letto anche con qualche significato politico al di là del fatto concreto. Professor Panebianco. Ragione, se si determinasse, non lo sappiamo naturalmente, non, è solo una possibilità, una nuova scissione, in questo caso sulla sinistra del sistema dei partiti, questo avrebbe come effetto di bloccare il processo di ricomposizione, di unificazione sulla destra del sistema politico. Sì, se in uno dei due schieramenti si verifica una frammentazione, questo ha una ripercussione praticamente immediata sull'altro schieramento. Ecco, sul fronte invece della destra, guardando non tanto ad AN Forza Italia quanto alla Lega, la possibilità che la Lega possa attuare appunto una politica molto diversa rispetto a quella della coalizione, fino ad arrivare anche, come è avvenuto peraltro anche in passato, a una divisione, la ritiene realistica o la forza del potere è comunque una forza aggregante tale da rendere queste divisioni, queste polemiche in fondo tattica politica più che strategia di fondo? Credo che al momento sia soltanto tattica politica. Sono le elezioni, c'è un problema di competizione nel centrodestra e quindi è in qualche modo fisiologico che ci siano forti conflitti. Certo, se il quadro politico si rimette in moto con la formazione di una forza di centro, con capacità di attrattive anche a destra, io penso che questo per ora non sia il problema naturalmente, ma se accadesse allora anche nel centrodestra le divisioni si farebbero sentire con forza, con riflessi sull'attività di governo. Per il momento mi pare che siamo soltanto a una fisiologica competizione in vista delle elezioni. Compreso in questo anche il fatto che la Lega abbia, per esempio, richiamato i sindaci del Nord a violare il patto di stabilità dopo che lo stesso governo di cui la Lega fa parte ha approvato la possibilità per il Comune di Roma di spendere di più di quanto era concordato. Anche questa può essere solo una scaramuccia tattica, professor Panebianco? Direi di sì, al momento, dipende da come poi la Lega sceglierà di condurre questa operazione. Bisogna ricordare che la Lega è un partito territoriale che difende soprattutto interessi della sua area e lo fa mediando quando non ritiene che aspetti essenziali del proprio interesse siano in gioco, o non mediando e imponendo le proprie scelte alla coalizione quando ritiene che i suoi interessi vitali siano in gioco. Per ora siamo all'interno di una conflittualità che se crea, in qualche modo fisiologica, che però naturalmente dopo le elezioni potrebbe portare a nuovi sviluppi. Ma ripeto, tutto dipende anche da che cosa succede sulla sinistra dello schieramento. Grazie, ci fermiamo un attimo per le notizie sul traffico. Dietro la notizia. Bentornati a Dietro la Notizia, quest'ultima parte, pochi minuti per concludere. Abbiamo sentito, c'è nebbia nella Pianura Padana, c'è un po' di nebbia anche nella politica. Cerchiamo di fare qualche chiarezza con il professor Angelo Panebianco, professore di scienza politica all'Università di Bologna e all'Università Vita e Salute del San Raffaele, editorialista del Corriere della Sera. Massimo da Pistoia, buongiorno. Buongiorno, senta. Niente, volevo evidenziare come di fronte a grandi partiti che cambiano costantemente, che si muovono, sia anche nella sinistra radicale, io per esempio sono un cattolico che viene dalla sinistra radicale, non c'è, manca poi quella partecipazione proprio negli organi delle persone, delle nuove persone, nuove generazioni. Non c'è lo spazio in realtà, non c'è. Rimangono i soliti, cambiano il castello, ma rimangono le soliti. Questo è il grande problema. Il problema, non dico che è sempre colpa dei politici, è anche colpa probabilmente di un grado dei cittadini. Penso al fenomeno americano con Obama, dove la politica era quasi con Bush, insomma i democratici erano completamente allo sbando. Ma Obama è venuto fuori non solo perché esiste Obama e in Italia manca un personaggio del Partito Democratico, ma probabilmente c'è una maturazione anche della coscienza politica dei cittadini. Grazie mille, mi sembra molto chiaro perché in Italia non c'è e forse in prospettiva non ci sarà un fenomeno Obama. Professor Panebianco. No, questo non intanto non lo possiamo sapere, nel senso che Obama è prodotto di una tradizione che è completamente diversa dalla nostra, il sistema americano è completamente diverso dal nostro, non si possono fare questi confronti così meccanici. E soprattutto cioè la domanda conteneva due aspetti, uno secondo me corretto, ed è perché qui c'è un blocco generazionale dentro i partiti. L'altro invece è un aspetto tipico della nostra cultura politica, che abbiamo sempre bisogno del Sarkozy, dell'Obama o di altro. I paesi hanno ciascuno le loro tradizioni e non ci dovrebbe essere nessun bisogno di andare alla ricerca del modello estero. In qualche modo noi, come ognuno degli altri paesi, abbiamo la necessità di avere una classe politica capace di rispondere ai nostri problemi, e quindi la ricerca ossessiva del modello estero, che purtroppo è interna alla nostra tradizione, dovrebbe essere perlomeno almeno criticamente vagliata, presa in considerazione. Non abbiamo nessun bisogno di Obama, non abbiamo nessun bisogno di Sarkozy, di Blair o di che altro, abbiamo bisogno che nella nostra classe politica avvengano ricambi, che nuovi leaders si affaccino e che siano leaders italiani che rispondono ai problemi di questo paese. Il punto vero è che i nostri partiti sono bloccati, cioè il ricambio generazionale non c'è. È vero che da un quindicennio gli stessi leader controllano gli apparati cruciali della politica italiana, e questo è il vero problema. In fondo il vero problema è che la politica dovrebbe riformare se stessa, ma chiedere a qualcuno di riformare se stesso è sempre difficile, ma non possiamo certo sperare in una rivoluzione esterna. Comunque l'evoluzione c'è, comunque il succo della democrazia è che in fondo poi la logica di fondo, il pallino l'hanno in mano comunque i cittadini, e questo è certamente un dato positivo. Paolo dalla provincia di Brescia. Buongiorno. Buongiorno, ci dica. Complimenti a una delle trasmissioni più interessanti del panorama nazionale, non solo radiofonico. E poi una piccola provocazione e domanda. Volevo sapere dal professor Panebianco, giusto? Sì. Qual era, secondo lui, il giudizio su questa affermazione che gli italiani sono politicamente ancora immaturi? E lo dico generalizzando il discorso, perché secondo me quando un politico lavora male non dovrebbe più essere rieletto, dovrebbe sparire completamente dal panorama politico. Invece in Italia da quando c'è la Repubblica si tende spesso e volentieri a votare più per il viso piuttosto che per la fama di una persona che non per quello che fa politicamente parlando. La ringrazio, si potrebbe dire che gli italiani hanno i politici che si meritano, ma è una battuta e lascerei la conclusione al professor Panebianco. Allora, diciamo così, le democrazie hanno meccanismi diversi per premiare o punire i politici che a giudizio degli elettori ben governano o sempre a giudizio degli elettori mal governano. Noi non non avevamo un meccanismo di questo tipo per varie ragioni nella fase in cui il sistema era bloccato. La ragione principale è che non era possibile un'alternanza al governo. Adesso siamo entrati finalmente, da questo punto di vista, in una fase, dopo la fine della guerra fredda, in cui le alternanze al governo sono possibili. Il modo che hanno i cittadini per premiare o punire i governi è questa. Non c'è un problema di essere politicamente maturi o immaturi, non è questo il problema. Il problema è avere dei meccanismi che consentano agli elettori di spostarsi, di giudicare e premiare o punire. Almeno questo lo abbiamo, perché disponiamo ormai di un sistema in cui è possibile l'alternanza fra gli schieramenti. Non si bisogna però chiedere alla politica miracoli. La politica in qualche modo riflette quello che c'è nel paese, e quindi quello che dobbiamo sperare è che un processo di rinnovamento della classe politica avvenga e che forze nuove, giovani, fresche, con idee nuove, subentrino progressivamente, senza bisogno di rivoluzioni, ma a coloro che hanno retto la politica italiana sulla destra come sulla sinistra del sistema politico negli ultimi 15 anni. Grazie professor Panebianco, dobbiamo fermarci qui. Io ringrazio Angelo Panebianco di essere stato con noi. Angelo Panebianco, professore di scienze politiche a Bologna e all'Università Vita e Salute San Raffaele, editorialista del Corriere della Sera, ci ha aiutato a fare chiarezza un po' sulla politica italiana, sulle prospettive che restano certamente incerte, ma che sono in mano anche a tutti noi cittadini, che abbiamo una responsabilità di far vivere la democrazia prima che far vivere la politica. La politica è una parte importante, decisiva, fondamentale della società, è compito nostro essere nella politica. E gli ultimi 10 secondi li dedico per dire che questa trasmissione Dietro la Notizia va in pensione per qualche tempo. Da lunedì ci saranno delle novità nel palinsesto di Radio 24, ci sarà Giuliano Ferrara che condurrà Parliamo con l'Elefante dalle 9 alle 10 e nella fascia precedente dalle 7:30 alle 9 Alessandro Milan che ha condotto finora Viva Voce, lo condurrà anche tra pochi minuti, condurrà invece questa fascia precedente che sarà dedicata all'approfondimento, all'attualità, alla cronaca, e sarà sicuramente qualcosa di interessante per i nostri ascoltatori. Grazie da Gianfranco Fabio per quanto ci hanno seguito, l'appuntamento è chissà per quando.